Radio 24. Libera la voglia di fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Di rifugiati, quindi l'Italia, per favore, Papa Francesco, dove sta il paese di cristiani, dove sta? Certo che come seconda metà d'agosto ci aspettavamo qualcosa di meglio, pensavamo un momento migliore, però la paura del terremoto, la paura del terrorismo, adesso lo sgombero a Roma, e va bene, va così. 800 24 00 24, però possiamo stare insieme tutta la sera fino alle 20. Aspettiamo come sempre i vostri interventi. Ben ritrovati con Si può fare. Allora, quello che avete sentito sono le voci da Roma, lo sgombero. Sentiamo un responsabile di Medici Senza Frontiere, Tommaso Fabbri, sentiamolo. Le persone che vivevano in questo stabile sono state sgomberate in maniera violenta. Da stamani in corso l'ennesimo sgombero in Piazza Indipendenza. Dentro questo stabile ci sono persone che abitano dal 2013, la maggior parte sono eritrei, persone con lo status di rifugiato, che hanno la protezione, che a tutti gli effetti vivono in maniera legale in Italia. Allora, alcuni erano in effetti, sono in effetti dei rifugiati, un'ottantina, altri erano persone che non hanno lo status di rifugiato e sono migranti, alcuni senza documenti in regola. Se tirano qualcosa spaccategli un braccio, avrebbe detto un poliziotto, un uomo in divisa, si sente in un video. Una frase certo che uno non vorrebbe mai sentir pronunciare da un uomo in divisa, ma seppure non era certo una festa, un pigiama party, un banchetto quello che era in corso in quel momento lì. Giusto sgomberare un'occupazione abusiva in pieno centro della capitale d'Italia dopo 4 anni, forse, anziché usare gli idranti in mezzo alla strada, si poteva accompagnare queste persone da qualche parte, riconoscerle e trovargli una soluzione alternativa, compreso l'espulsione per chi non ha i documenti in regola. Certo, la questura dice però, e chiudiamo la panoramica, che gli idranti sono stati usati, l'azione violenta è entrata in azione soltanto dopo che a queste persone è stata proposta una soluzione, che alcune di queste persone, che è stata rifiutata. Fatto sta che forse si poteva gestire diversamente. Il pieno centro a Roma non è una bella copertina per la capitale d'Italia, una bella immagine, e non è neanche una bella situazione quella che si è creata, anche se, e lo dice l'UNICEF, situazione creata sia a causa della mancanza di politiche adeguate e lungimiranti. Vabbè, lo dice l'UNICEF, ma lo stiamo capendo tutti, che qua c'è qualcosa che non va nella gestione dei migranti in Italia. 800 24 00 24, però c'è anche la questione Ischia. Sentiamo il padrone di casa, la casa caduta, crollata, non è morto nessuno, stati salvati tutti, però la casa con gli abusi. E abita proprio nel piano costruito abusivamente negli anni 80 e poi condonabile o condonato, non si è capito. Condonato 85 e un'integrazione nel 94, da cui pagati gli oneri urbanistici, concessioni e tutto, ma mai avuto una risposta dallo Stato. pochi anni fa stavano iniziando a vagliare i condoni dell'85, però non hanno fatto nient'altro. Cioè, a noi non sono mai arrivati, mai qualcuno che è venuto a controllare, mai qualcuno che è venuto a dire se noi avevamo fatto bene o meno. Hanno intascato i soldi e si sono dimenticati di noi. Hanno intascato i soldi e si sono dimenticati di noi. Di chi è la colpa di quello che è accaduto, oltre che del terremoto naturalmente? Di chi ha costruito un secondo piano abusivamente, attendendo poi il condono, e anche un terzo piano, una veranda, un terrazzo, non si è capito bene? O, come dice il proprietario di casa, è colpa dello Stato che si è preso gli oneri, si è preso gli oneri fiscali e non ha esaudito la domanda di condono. Ma basta esaudire una domanda di condono per mettere in regola una costruzione nata abusivamente? Abusivamente non è abusivo non è solo il fatto che non hai l'autorizzazione, è il fatto probabilmente che non potevi costruire. C'era un motivo forse se non potevi costruire in quel modo lì un piano sopra un altro piano, e infatti non a caso è quello l'edificio che è crollato. Che ne pensate? 800 24 00 24. Poi facciamo sentire Povia, perché Povia è finito nel centro di una polemica. L'Ampi di Milano non vuole farlo suonare a Trezzano sul Naviglio, un concerto, uno dei pochi che tiene Povia, a dir la verità, perché non è che abbia un grandissimo seguito dal punto di vista musicale. Però l'Ampi dice Povia è vicino ai movimenti antifascisti, l'Ampi che è antifascista non vorrebbe che Povia suonasse questo tipo di canzoni qua. Questa è Immigrazia, o Immigrazia anzi, che è uscita, una canzone che è uscita con tanto di dedica a Matteo Salvini qualche settimana fa. Immigrazia, immigrazia, l'immigrazia è una follia voluta da chi vuole che tu vada via, tu vada via. Immigrazia, immigrazia, immigrazia, portami via, che per mandare avanti il PIL vogliono i nuovi schiavi qui. Gli immigrati di domani saranno i nuovi italiani. Immigrazia, immigrazia. Vabbè, il papà non è male. Immigrazia, portami via. Non è che sia il massimo poi a livello di, diciamo, di costruzione canora, musicale, poetica, eccetera. È molto didascalico. Ce l'ha con l'immigrazione, eccetera, eccetera. Però è libero in Italia uno di dire quello che vuole anche sull'immigrazione, no? Perché l'Ampi adesso non vuole che tenga un concerto Povia a Milano? In Italia esiste già il reato di apologia, di fascismo, eccetera, eccetera. Quindi se uno non è fuori legge deve poter dire quello che gli pare, credo. Anche qua 800 24 00 24, che ne pensate? E che ne pensate di Alfano che, elezioni regionali siciliane alle porte, alleanza col PD alle porte in Sicilia, ma la politica siciliana è una costruzione barocca, quasi inutile cercare di capirla, ma che propone, cosa propone Alfano per la Sicilia? Una ricetta antica, quando è stata fatta la prima Olimpiade? 2000 anni fa? Di più forse. Vai. E noi abbiamo un lavoro in corso sul programma e abbiamo alcuni obiettivi molto molto forti che stiamo facendo studiare tecnicamente e che vorremmo presentare nei prossimi giorni, a cominciare da una zona franca fiscale per la Sicilia e una candidatura della Sicilia alle Olimpiadi come luogo che possa ospitare le Olimpiadi. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Si può fare, cronache da un paese migliore. Allora, dopo l'attentato di Barcellona, ancora una volta si parla di prevenire e di controllare possibili terroristi, possibili persone radicalizzate nelle scuole, nelle carceri, ovunque, nelle moschee, E questo forse deve avvenire proprio, prima di tutto, all'interno delle comunità islamiche in Italia, dove si prega proprio nel nome dello stesso Dio che viene evocato costantemente dai terroristi. Ne parliamo con Nibras Breghesce. Buonasera, benvenuta Nibras. Buonasera, grazie. Prima, possiamo dirla, prima imam donna in Italia, prima guida religiosa islamica in Italia o qualcosa del genere? Diciamo che sono la prima donna membro del direttivo dell'Associazione Islamica Italiana degli Imam e delle guide religiose. Perché non sono molte le donne ammesse normalmente a questo ruolo all'interno della religione islamica. Allora, spesso... Questo è quello che si pensa, sì. Ma i dati... Quali sono i dati? In occasione della fondazione, sì, dell'associazione, sì, su 20 persone eravamo 5 donne, quindi un quarto, una discreta quota rosa che per iniziare non è male, anche non è male. Se puntiamo naturalmente a una presenza e una partecipazione a livello direzionale sempre maggiore, dato perché che nelle moschee, sì, nei centri islamici, tra i formatori proprio, soprattutto nelle scuole che vengono organizzate il fine settimana per trasmettere la lingua madre ai giovani di seconda, sì, generazione e i principi della religione islamica, molto spesso queste lezioni vengono impartite proprio da donne, ad esempio questo qui è importante, a Trento, questo è importante. Per insegnanti siamo 7 donne. Mi fa piacere, questo è importante dirlo perché proprio il ruolo della donna, anzi ne parleremo, è un punto chiave di tutta questa faccenda, il ruolo della donna all'interno dell'Islam, ma spesso si dice quasi sempre che non c'è quella reazione che ci si aspetta dopo un attentato, ma in generale da parte del cosiddetto Islam moderato, cioè dell'Islam normale, milioni forse di cittadini islamici, per esempio, che stanno in Italia, che fanno una vita normale, ma che non si rende mai abbastanza visibile, che non prende abbastanza le distanze dal pensiero anche dei terroristi che attaccano i miscredenti, gli occidentali, colpendoci negli stili di vita, perché si fanno attentati nei bar, nei ristoranti, certo, nelle, certo, strade trafficate dalla gente normale. Questa reazione c'è stata questa volta, Nibras, comincia a esserci o no? Perché molti non la vedono. Sinceramente questa accusa io la respingerei al mittente, perché basta interrogare Mr. Google per trovare decine di comunicati stampa, oppure andare su Facebook e trovare appunto le condivisioni di decine di comunicati stampa che noi ci sentiamo in dovere come associazioni islamiche europee, a partire dalla FIOE, la Federazione delle Organizzazioni Islamiche Europee, e tantissime altre associazioni, di, sì, rivendicare, purtroppo frequentemente, perché ogni anno ne avvengono diversi, la completa estraneità di queste azioni criminali dai principi di qualsiasi religione, compresa quella islamica. Sì. Quindi direi che questa accusa di non prendere le distanze in modo chiaro, in modo netto, o non farlo in modo sufficiente, andrebbe rispedita al mittente, e credo che Perché però invece secondo lei molte persone credono questo? Perché forse i comunicati, non so chi possono raggiungere i comunicati stampa o le dichiarazioni di un imam, a livello di vita vissuta, di vita reale, una manifestazione forse può essere più visibile. Ma ne sono state fatte diverse, in occasione di Charlie Hebdo, ad esempio, una delle più evidenti, diciamo, in pieno centro a Milano, con migliaia c'era stata, è vero. Ma è d'accordo Nibras sul fatto che la prevenzione, il controllo, cercare di prevenire potenziali terroristi radicalizzati è una cosa che deve avvenire all'interno, prima di tutto, forse proprio delle vostre comunità islamiche, prima di tutto, prima che altrove, proprio perché questi terroristi agiscono nel nome del vostro stesso Dio? Certo, siamo pienamente d'accordo su questo, è proprio su questo che siamo impegnati nel quotidiano, per appunto prevenire o far fronte a questo triste fenomeno dell'analfabetismo religioso, che è il terreno più fertile per appunto l'adescamento di giovani che effettivamente non hanno ricevuto alcun tipo di formazione religiosa e che quindi non hanno gli strumenti di conoscenza per capire che questo tipo di di ambiente, questo tipo di azioni è assolutamente incompatibile con il messaggio coranico. L'analfabetismo è questo il punto, perché io non lo so, perché come si spiega per esempio che ci sono stati degli imam di moschee, quindi che spiegavano, facevano prediche all'interno del luogo dove si esprime la religione musulmana, che sono stati espulsi perché tenevano dei sermoni anti-occidentali che vietavano ai ragazzini di ascoltare la musica o altre cose di questo genere. Quindi come si mette insieme questo discorso sull'analfabetismo religioso e il fatto che invece proprio nelle moschee, in alcuni casi è successo, si predicasse questa forma di odio? Effettivamente è successo questo. Comunque non paragonerei appunto un discorso di tipo comunque estremista, il non ascoltare musica o non frequentare l'ora di musica a scuola è sicuramente un discorso di tipo estremista, anche questo incompatibile con i principi della religione e della giusta via di mezzo, così il Corano chiama la pratica religiosa islamica la giusta via di mezzo, e quindi bando all'estremismo in qualsiasi sua forma. E invece chi arruola, adesca giovani per compiere azioni di tipo criminale, tipo attentati che portano addirittura alla morte di persone. Sono entrambi fenomeni naturalmente pericolosi, che vanno controllati, che vanno prevenuti, ma non li assimilerei. E tra l'altro il compito dell'Associazione Islamica Italiana degli Imam e delle Guide Religiose è proprio quello di organizzare periodicamente dei corsi di aggiornamento per imam, anche per permettere agli imam e alle guide religiose, sia uomini che donne naturalmente, di far rete tra di loro per far sì che i centri islamici siano guidati, che si conoscano tra di loro, e per mettere a disposizione delle comunità islamiche delle persone che effettivamente abbiano una formazione di tipo teologico. Anche questa però è una cosa di cui si parla da un po' di tempo, cioè l'albo delle moschee, l'albo degli imam, l'obbligo di tenere i sermoni in italiano, anche se fino ad ora non è un obbligo, ma è, come dire, un'indicazione su base volontaria. Sarebbe giusto che fosse un vero e proprio obbligo, secondo lei? Ma lo è, è una cosa che noi mettiamo in pratica ormai da un trentennio, da qualche decina d'anni, tra l'altro anche per esigenze nostre interne, perché mica la maggior parte dei musulmani che vivono in Italia sono arabofoni, ci sono gli albanesi, ci sono i bosniaci, ci sono i pakistani, e quindi è prima di tutto un'esigenza nostra interna per rendere i discorsi comprensibili a tutti. E l'albo invece, per quanto riguarda l'altra questione, l'albo degli imam o anche delle moschee, esiste questo albo? Diciamo che sono in corso delle trattative con il governo italiano per arrivare finalmente, si spera al più presto, alla stipula di un'intesa tra lo Stato italiano e la comunità o le comunità islamiche. E cos'è che frena? Perché è da molto che si parla di questa possibile intesa, però poi no, che dovrebbe giovare a tutti, perché dovrebbe fornire trasparenza, come dire, una sicurezza del fatto che all'interno delle moschee passino concetti religiosi e non di estremismo violento o politico. Certo, cosa frena certo. Invece tutto questo? Tra l'altro, oltre a questo, permetterebbe alle comunità islamiche italiane di diventare completamente autonome anche dal punto di vista finanziario, dato che l'8 per mille sarebbe un'entrata non indifferente, una possibilità appunto di diventare autonomi dal punto di vista economico. C'è chi dice che ha frenato la stipula dell'intesa in questi diversi decenni dalla presenza cospicua islamica in Italia, la presenza di associazioni diverse, e poi soprattutto la propaganda di tipo politico che ha portato appunto a trasformare una comunità religiosa, tra l'altro la più importante dal punto di vista numerico, oggetto di campagne elettorali che purtroppo in alcuni casi hanno portato a una strumentalizzazione, sì, della presenza e del pluralismo. Speriamo che qualcosa si muova in fretta e di decisivo in questa direzione. Perché è stata firmata presso il Ministero degli Interni da parte dei rappresentanti di 12 associazioni, tra le più importanti associazioni islamiche nazionali. Sì, sì, ne abbiamo anche parlato nella versione Si può fare del weekend di questa notizia, perché in effetti, però, di protocolli in effetti ne abbiamo. Adesso speriamo che il tutto diventi più concreto. Dicevamo del suo ruolo, una donna, una guida religiosa, una delle prime, adesso una delle poche, ma comincia, ci diceva Nibras, cominciata a essere sempre di più. Perché il punto è proprio questo, uno dei punti, mi verrebbe dire, di rottura, la condizione della donna, no, nell'Islam. In alcuni paesi, per arretratezza culturale, spesso voi dite, ma sono paesi comunque di religione islamica, dal limiti nello studio, nel lavoro, anche semplicemente il fatto di dover essere accompagnate fuori di casa da qualcuno. I terroristi sognano le vergini in paradiso, tanto per dirne una. In Italia le donne islamiche che condizione vivono? Oggi venire in Italia vuol dire fare un progresso anche per queste donne, migliorare la loro condizione? Si spera, anche se non lo è sempre, sinceramente. Per quanto riguarda la discriminazione nei confronti delle donne, purtroppo bisogna dire, non si può non riconoscere che il mondo è paese, perché anche in Italia esistono tutt'oggi delle discriminazioni. Ogni due giorni circa sentiamo notizie al telegiornale di donne ammazzate, donne maltrattate, donne che in media percepiscono meno il 24%. È vero, però mi permetta, Nibras, di fare una differenza tra caso di aggressione, certo. E caso in cui una donna non può uscire di casa per una convenzione sociale da sola, o non può studiare perché è donna. Comunque non possiamo generalizzare, il mondo islamico è fatto di circa 2 miliardi di persone e di decine di paesi, ogni paese ha la sua legislazione. E purtroppo, oltre alle legislazioni ufficiali, che molto spesso sono di tipo dittatoriale, non per motivi religiosi, ma per motivi storici, sociologici, che ora immagino non ci sarà il tempo di approfondire, anche per questioni appunto tradizionali, ed è bene distinguere quelli che sono i principi religiosi dalle tradizioni locali. Ci sono pratiche come l'infibulazione e le mutilazioni genitali femminili che vengono tuttora praticate in alcune tribù africane, non solo musulmane, addirittura anche... Certo, e altrove no, ma infatti la domanda era rivolta alle donne islamiche in Italia. Secondo lei, Nibras, se stanno in una condizione di assenza di discriminazioni all'80%, al 100%, al 40%, dal suo punto di vista di donna, tra l'altro... Certo. Io personalmente lavoro in ambito interculturale e quindi non ho personalmente mai subito nessun tipo di discriminazione. Porto il velo e lo porto anche nella scuola pubblica, perché partecipo a insegno italiano a studenti stranieri neoarrivati e partecipo a progetti di tipo interculturale, tra l'altro in collaborazione con diversi insegnanti di religione cattolica. Però non posso far finta di non sapere che ci sono donne che vengono discriminate sul lavoro per il semplice fatto di portare qualche centimetro di stoffa in più che scopre i capelli. Quindi la situazione, come si può immaginare, è molto variegata. Ci sono donne musulmane in carriera che sono molto soddisfatte della loro situazione, donne avvocatesse, donne dottoresse. Va bene, devo salutarla, Nibras, devo dare la linea alla borsa. La ringrazio intanto, Nibras Breghesce, per essere stata con noi. Grazie, buona serata. 800 24 00 24, borsa, torniamo tra poco. Fiera del Levante, riscaldamento a legna e pellet, pftecnologie.it vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora, allora è il momento degli ascoltatori, il vostro momento. Cominciamo con l'800240024. C'è Dario che chiama da Lecco. Buonasera Dario. Buonasera. Vai. Niente, io volevo parlare un attimo del primo punto toccato nella trasmissione, che è il discorso immigrazione. Sì. Sicuramente il governo centrale italiano non sta gestendo bene la cosa e è, credo, sotto gli occhi di tutti. Però veramente c'è pochissima collaborazione, in primis dall'Unione Europea e poi anche dai paesi singoli, come la Francia, la Spagna, che non vogliono i migranti nei loro porti, piuttosto che l'Austria, che abbiamo visto qualche mese fa ha schierato dei militari, poi non li ha schierati, insomma ci ha lanciato un messaggio come per dire noi qui non li vogliamo. Sì, è vero, però è sempre un po' anche come viene gestita la situazione. Uno può dire, a monte della situazione che si crea, della presenza di un palazzo occupato abusivo a Roma, ci sono delle altre cause, c'è la Francia che ci volta le spalle, l'Europa che non ci aiuta, eccetera eccetera. Però una volta che il problema ce l'hai, come lo gestisci? Allora lo gestisci così: arrivi con le camionette della polizia e poi decidi la mattina in prefettura dove portare alcune di queste persone che hanno minori o disabili o persone che hanno lo status di rifugiati, quindi hanno comunque il diritto di rimanere qua. Ma non arrivi già con un'idea, con un progetto, con una visione più ampia. No, arrivi sempre col fiato corto, e questa è la sensazione che si ha, di là del fatto che lo sgombero toglie una situazione di legalità che è giusto togliere, no? Assolutamente sì, è giusto toglierla, è giusto che venga rispettata la legge, però veramente se in Italia si continua con la gestione dei centri di accoglienza straordinaria e non comunque un sistema che quantomeno possa cercare di integrare un tot numero di persone che possono essere integrate. Io mi ricordo nel 2015 Juncker disse che parlava di una percentuale del 3 per 1000. Sì. Adesso vi porto veramente una... Del 3 per 1000 di cosa, scusa Dario? 3 immigrati ogni 1000 abitanti, diciamo, no? Sì. Ho un comune vicino al mio che fa poco più di 1000 abitanti. Da un giorno all'altro si è ritrovato che la prefettura, come dicevi giustamente tu prima, ha ordinato che 40 immigrati venissero messi, sì, in una struttura e con tutto. Certo. Ma quello anche perché poi possono dare. Anche perché ci sono altri comuni che invece dicono no, non ci sono posti, non accettano neanche le indicazioni della prefettura. Accade anche questo, e quindi poi c'è il piccolo comune che se ne trova, anziché e 4 se ne ritrova 40 di immigrati. Grazie Dario, buona serata. Franco, sempre da Lecco. Vai, buonasera, Franco. Grazie. Buonasera, buonasera, grazie. Volevo replicare la signora Iman, che sostiene praticamente che prima di tutto la donna nello Islam adesso parrebbe che stanno rivalutando il ruolo religioso della donna nella religione, perché vorrebbero eleggere più imam, eccetera. In Italia, una... questo è in Italia, sì, questo sì. Lì ci fa l'esempio di 20, di 4 su 20 se non sbaglio, no? Sì. Perché si sono trovati in una riunione. 5 su 20, 5 su 20. Scusi, sì. Si sono trovati in una riunione, ma possiamo immaginare con le migliaia di imam che ci sono, se ci sono 300, 400, 1000 donne, manco per idea, la prima cosa. La seconda cosa, la signora dice che praticamente disusate manifestazioni, ma quali? Ce n'è stata qualcuna, ma in corrispondenza dei Charlie Hebdo, ma per il resto quando avete visto voi manifestazioni? Timide, islami, timide, è vero, timide, timide, no, poche. Timide, lei dice, vergogna. Perché loro dicono sempre, i rappresentanti rispondono, sì, per quello che possono, delle comunità islamiche dicono abbiamo fatto un comunicato, abbiamo preso le distanze, però il comunicato non lo legge nessuno. Ma come? Non lo vede nessuno. Ma l'ha preso in giro questa qua, scusi, quando dicono così. Non è vero, perché la comunità islamica, dalle statistiche a quanto pare, e hanno... dalle statistiche francesi, inglesi, così, vi sono 20 o 30% di giovani che approvano quello che fa l'ISIS e i terroristi. Io adesso non so lei queste statistiche dove le ha preso, Franco, però il punto è proprio quello, il punto è proprio di rendere visibile con delle manifestazioni di piazza, con delle feste, vogliamo fare delle feste, vogliamo fare delle cose comunque visibili, pubbliche, dove la gente ci mette la faccia e dice esattamente quello, noi siamo altra cosa, prendiamo le distanze, condanniamo, non è vero Islam, è tutto quello che si dice sempre, ma non in un comunicato, ma è qualcosa di più di più vero, di più visibile, di più reale, altrimenti la gente continuerà a sospettare quello che dice lei, cioè ce l'hanno con noi comunque, anche se non sono terroristi. Questo è quello che pensa l'italiano, non dico medio, ma insomma forse anche sì. E quindi niente, va bene. Franco, vuoi aggiungere qualcosa? Volevi aggiungere? No, no. Aggiungere solamente sì. Una cosa, che anche la connivenza a questi terroristi o anche gli estremisti, sì, eccetera eccetera, c'è in tutta la comunità islamica, pure anche tacita, per esempio, non è mica detto che siano appoggio, ma sicuramente trovano alloggio, difesa, sostegno morale, economico, eccetera eccetera. Quindi è da l'islam che deve venire la soluzione, secondo me, in parte. Va bene, va bene, non ne usciamo più. Va bene, grazie Franco, buona serata. Alberto da Varese, vai. Buonasera, volevo criticare l'intro che avete fatto sulla polizia, cioè dove si è sentito quello di Medicine Sans Frontiere che dice che la polizia è violenta, migranti poverini, gli ampicchietti di qua di là. Io sono un carabiniere, sono congedato adesso, però mi chiedo se qualcuno di quelli che stanno dalla vostra parte ha mai avuto, provato, diciamo, a fare qualche ragionamento con questi qua quando si incazzano. Non è che è proprio che ci parli così tranquillamente, per cui anche questi, beh, no, ma perciò io ho detto, fatene sentire magari, sì, uno che dice, oh, ma ho capito, senti qua di Medicine Sans Frontières, sentiamo un maresciallo, no, un, ma infatti possiamo sentire tutto, noi mandiamo in onda, Alberto, quello che abbiamo adesso. Dichiarazioni della polizia non ce n'erano, è la verità, ma mandiamo non in onda perché non gliene fanno, non gliene fanno, no, vabbè, ma non è che non gliene arriveranno sicuramente, però il punto è proprio quello. Non pensi che in qualche modo la polizia in queste circostanze venga mandata, tu sei un ex carabiniere, allo sbaraglio, cioè a fare lo sgombero in assenza però di un'idea di cosa fare? Lì c'erano, ci sono bambini, no? Ci sono disabili, soft, non puoi scacciarli. Poi forse magari si sente profumo di elezione. No, ma non è solo le regole di ingaggio, allora è proprio... No, è proprio quello. Se voi ricordate, sì, i casi di Milano di qualche anno fa, quando ci fu quella manifestazione di immigranti che bloccarono Milano, la polizia era lì, ferma, non ha mosso un dito. Se ci sono quelli di Casa Pound, l'ordine è attaccare, non c'è nessun problema, perché tanto non gliene frega un cazzo a nessuno di quelli di Casa Pound. Scusami, no, sto facendo proprio una cosa così, è un pur parler. Mentre invece contro alcune persone bisogna essere un pochino più tranquilli. Adesso invece si vede che è cambiato un po' il vento, ma ce ne siamo accorti tutti che è cambiato il vento. Da Renzi che dice aiutiamoli a casa loro, il numero chiuso di qua di là, e la polizia che alza le mani. Io sti poveri ragazzi che vanno lì, che cosa gli devi fare? Cioè, che cosa gli devi dire? Cioè, se menano sono cattivi, se non le prendono, cioè, se non alzano le mani, però insomma questi qui non mantengono ordine pubblico. Io penso che queste persone qui, se si comportano bene, stanno qua, se non si comportano bene, se ne vanno a casa loro, quelli clandestini. Va bene. Quelli rifugiati politici stiano qua. Buonasera. Grazie, ciao Alberto, grazie. Paolo da Verona, vai. Buonasera, io volevo intervenire, sì, su un'altra cosa. Sì. Sono un amante di Ischia, io sono di Verona, amo questi posti, ogni anno ci vado con tanta felicità, ma questo riflesso condizionato che ho ascoltato dal proprietario della casa abusiva crollata e che ritrovo anche in brave persone, ma è un riflesso condizionato da cui non se ne esce dal punto di vista del riscatto di un'intera comunità, perché non si può dire, ammettere una colpa, ammettere un reato come quella di tirare su una casa abusiva e poi tirar fuori lo Stato. Perché e quella diventa come dire, l'alibi. È un mantra, anche perché uno si lava la coscienza così. Una delle più belle esperienze, sì, quando sei nei posti nuovi è girare con i tassisti. I tassisti di Ischia sono straordinari, conoscono perfettamente la realtà. Ischia ha 40.000 persone durante l'anno che diventano 400.000 o quasi d'estate. Sì. E quei poveri tassisti dicono, sì, con molta come dire, buon umore, ironia napoletana, 40.000 persone e sei comuni, Casamicciola, Serra la Fontana, Ischia Porto, Forio, ecco, con assoluta incapacità di sinergizzare le operazioni. Se io a Verona tiro su una casa abusiva, dopo un po' mi arrivano i vigili urbani, non mi arriva il Ministero degli Interni, è il comune che dà il via libera al condono, è il comune che consente, sì, di mettere su queste case. Esatto, ma anche se fosse il comune, come dicono quelle persone, che poi chiede le tasse, è corresponsabile, ma responsabile sei anche tu, che hai costruito senza avere una concessione, un'autorizzazione, e hai fatto una cosa che non andava fatta, certo, e rischiando, certo, perché non è solo che non rispetti le regole, c'è un motivo se non puoi, se non puoi costruire un secondo piano sopra un altro piano, c'è un motivo, no? Lo Stato può al massimo condonare in termini generali, ma tu stai che hai messo dentro il cemento impoverito, tu sai che hai risparmiato sul muratore, tu sai che hai messo quegli infissi che non vanno bene, lo sai perfettamente perché hai risparmiato rispetto a un altro preventivo, per cui tu sei pienamente responsabile. Dopodiché questa mantra dello Stato ha stupato i napoletani per primi, perché sono i loro comuni che devono fare le verifiche, va bene. Non è Alfano che arriva lì e controlla. Grazie. Grazie Paolo, ciao, buona serata. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. È con noi l'assessore alla sicurezza del comune di Genova, Stefano Garassino. Buonasera. Buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora, benvenuto. Allora, in questa città, dopo uno storico cambio di giunta poco tempo fa, adesso forse è in arrivo un cambio di passo sulle regole della sicurezza in città, con checkpoint, telecamere, antidegrado, antimovida selvaggia forse. Però ecco, cerchiamo di intendere, perché questi sono gli annunci che lei ha fatto, cerchiamo di capire qual è il punto di partenza, no? Perché sembra che in centro, a Genova, ci siano notti alcoliche selvagge, vogliamo definirle così? No, beh, ora sì, insomma, diciamo che c'è, come in tutte le città, una movida che da un certo punto di vista, fatta da molti commercianti, una buona movida. Poi ci sono alcuni fenomeni che vanno contrastati, cioè purtroppo in aumento il numero di giovanissimi, parliamo anche di 14enni, massimo 15enni, che negli zaini si portano da casa bottiglie di vodka o bottiglie di birra da 6,66 in vetro soprattutto, che tra l'altro ricordo è vietato nella zona movida l'utilizzo del vetro. Proprio è vietato sempre o dopo una certa ora? È vietato dopo una certa ora. Dopo le 22? Dopo le 21. 21, ok. Esatto. E perché chiaramente, come ben si può capire, il vetro può essere utilizzato anche come arma, nonché poi far succedere in caso di fuga in massa cose simili a quelle che erano successe a Torino, no? Quindi proprio per questo motivo è stata decisa nell'ordinanza precedente di vietare l'uso del vetro. Purtroppo, ecco, però non funziona questa ordinanza precedente, non è bastata. Infatti ora verrà modificata e soprattutto verranno intensificati un po' i controlli e soprattutto la prevenzione, no? Perché prima di fare solo l'aspetto sanzionatorio è giusto che un'istituzione educhi chi sono i fruitori a dire occhio, perché in quella zona, non so se lo sapete, perché molti evidentemente o fan finta non lo sanno, c'è il divieto di utilizzo delle bottiglie. Abbiamo deciso anche di aumentare le multe fino a 250 euro per chi commette questa illegalità, di fare dei corsi nelle scuole per formare un po' i ragazzi anche a fare attenzione a questa piaga dilagante dell'alcolismo già in tenera età, perché è chiaro che un 14enne se si beve 6 ciupiti non è uguale come se lo beve un 30enne. È sempre da condannare, però a maggior ragione io faccio anche appello alle famiglie che Per capire meglio però, assessore, il punto è il contrasto dell'alcolismo tra i minori o è il contrasto di comportamenti di degrado, vetri rotti, anche una misura contro chi fa la pipì sui muri, per esempio, eccetera, eccetera. Tutte e due le cose. Esatto, oltretutto per chi urina sui muri i miei uffici stanno valutando con le città dove hanno utilizzato, tra cui Amburgo e negli Stati Uniti, una vernice anti urina, che quando tu compi quell'azione contro il muro ti torna indietro. Bisogna vedere ora se... Cioè la pipì ti torna indietro quando... Sì, esatto, sui piedi, esatto. Cioè, comunque, questa è una cosa curiosa, diciamo... Noi, questo è un si può fare, no? È proprio un si può, sì, fare, si può fare, ma lo state studiando, l'hanno fatto a Hamburgo, potete farlo anche voi. Perché l'altra, esatto, cosa che avevamo letto... solo verificare se, sì, diciamo, funziona bene, e soprattutto noi avendo molti palazzi storici, se la sovrintendenza non ha... da fare degli appunti, che non sia una vernice che rovina i palazzi, quindi sì, mi stanno studiando un attimino la fattibilità e i costi, ovviamente, perché, ma non perché è una l'altra economica. Cosa che avevamo letto è che avevate intenzione di mettere delle telecamere e poi di mettere di pubblicare il video della persona che fa, sì, pipì contro il muro. Esatto, lei tra l'altro dall'accento direi che viene dalla Toscana, sì, giusto? Sì. Arezzo, direi che è una città dove questo tipo di cosa, se non vado errato, C'è già, esatto, e pare che funzioni. Ora, quella io l'ho lanciata, a differenza delle altre, che sono cose che faremo, più per quasi portare l'attenzione dei media al problema di questa inciviltà, che parte proprio anche da una poca verifica dei comportamenti, perché purtroppo quando i numeri sono molto elevati devi avere un numero anche sufficiente di agenti, quindi stiamo cercando di cooptare anche i servizi, ecco, sì, multiforce, cioè con polizia, carabinieri e polizia municipale, perché è chiaro che se io mando 3 agenti della municipale su 50, 100, 200 persone, rischiamo che insomma potrebbe anche non finire benissimo, no? Perché in caso di persone ubriache con magari bottiglie in mano, io non voglio neanche fare rischiare. Cioè voglio mettere in sicurezza anche chi fa i controlli, nel senso che siano i numeri sufficienti da tanto fare da deterrente. Però i controlli, primo, scusi, mi sembra un punto fondamentale, perché sì, si rischia in Italia spesso di ad ogni giro di giunta esatto, di inasprire, cose, poi di, non, di alzare le multe. Adesso voi state alzando la multa a 50 250 euro, però poi se non c'è nessuno in giro che controlla, esatto, vigili, polizia, carabinieri, perché poi non cambia assolutamente nulla. Poi magari l'unico che viene pizzicato una volta rischia di pagarla, sì, per tutti. Questo è sbagliato, diciamo, però sfigato, no? Che... No, allora noi su questo stiamo preparando, e su questo spero di avere, come mi era stato promesso, ma non dubito assolutamente, un aiuto da parte del questore e del comandante dei carabinieri per fare appunto delle pattuglie miste, e con l'Associazione Nazionale dei Carabinieri stiamo valutando anche l'azione preventiva, cioè dove ci sono i punti di maggiore afflusso alla movida del centro storico, avere delle persone che fanno un po' di check, tanto avvisando che se tu entri con lo zaino, con le bottiglie, rischi la multa fino a quella cifra che lei, sì, ha detto. E poi naturalmente facendo operazioni anche di controllo, cioè se uno nota che nello zaino ci sono le bottiglie, vengono prese e sequestrate. Se poi qualcuno fa il furbo e cerca di aggirare, diciamo, e non passare da questi punti, e si infila per qualche vicolo e raggiunge i posti lo stesso, perché ovviamente è fattibile, allora è giusto l'aspetto sanzionatorio. Poi c'è l'aspetto appunto preventivo, anche educativo, delle scuole, che stiamo lavorando su un progetto insieme al professor Testino, che è un noto medico dell'ospedale San Martino, che già da anni lavora sull'antialcolismo, l'uso delle droghe eccetera, per fare un giro nelle scuole per far capire che veramente buttano via la loro vita. Ora, francamente, con tanta gente che sta male, andarsi a cercare le rogne quando stai bene, sì, è veramente un insulto alla vita. Quindi questa è sicuramente una parte della faccenda, assolutamente una parte, sì, della faccenda. Ben vengano però i controlli, ben vengano anche le telecamere in qualche caso, al posto di divieti che limitano la vita di tutti, invece si vanno a beccare soltanto quelli che fanno i comportamenti illegali e scorretti. Grazie assessore, buona serata, grazie per essere stato con noi. Grazie. Noi ci fermiamo, c'è il GR 800 24 00 24, torniamo subito dopo. Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da... Sei in ritardo! Ma ho comprato le pizze Roncadin! Non sei in ritardo! Roncadin! Nel banco freezer! Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Messaggi sulla questione di Genova, l'assessore alla sicurezza che annuncia nuovi metodi, nuovi controlli più stringenti e anche una misura anti-urinatori sui muri. Ma, dice Gian Antonio da Milano, invece di verniciare tutti i palazzi, non è più comodo mettere dei bagni pubblici? Non hai tutti i torti, Gian Antonio. I bagni pubblici, ma chi se ne ricorda più? Dove stanno più i bagni pubblici? Chissà perché non ci sono più i bagni pubblici nelle città. Vabbè, un altro ascoltatore dice, sono allibito. Il vostro ospite, l'assessore, ha ammesso candidamente che la pubblica sicurezza teme di intervenire la notte, i controlli antimovida. È quello che in effetti l'assessore lasciava intendere, che vuol tutelare anche i vigili, di non ritrovarsi in situazioni estreme. Sarà forse questo anche uno dei motivi per cui sui controlli spesso si è più tiepidi, cioè si annunciano multe sempre più salate, sanzioni, divieti, poi però i controlli sono sempre lì così. 800 24 00 24, questa è la vicenda di Genova. Adesso invece andiamo a Roma e con noi Tommaso Fabri, responsabile progetti Medici Senza Frontiere in Italia. Buonasera. Buonasera. Allora, sappiamo della cronaca, insomma, però Fabri ci può anche aggiornare su com'è la situazione, lo sgombero a Piazza Indipendenza a Roma, dove stavano da alcuni anni, quante persone più o meno, quanti migranti fra profughi e migranti? Ma diverse centinaia di persone dal 2013 ad adesso hanno distrutto via Curtatone, cioè Piazza Indipendenza a Roma, la maggior parte di origine eritrea, con tutte persone regolari, no, almeno la maggior parte quelle che siamo a corrente, regolari con titolari di permessi di soggiorno, protezione ai rifugiati e altri tipi di protezioni. Ecco, questo è importante anche a dirlo poi, no? Cioè all'interno quali sono le categorie di persone che c'erano, perché c'erano dei profughi che hanno uno stato di profughi, poi c'erano però anche altre persone. La situazione al momento adesso a Roma qual è? Dopo una giornata abbiamo visto le immagini, insomma, idranti, polizia in azione, turisti anche che passavano di lì con gli occhi sbarrati, e la situazione adesso qual è? La situazione è che adesso Piazza Indipendenza è stata sgomberata, l'edificio è stato sgomberato, le persone sono state disperse, ci sono delle persone che hanno fatto resistenza fino adesso, chiedendo delle alternative valide, cosa che sfortunatamente non è successa, nonostante lo sgombero sia stato attuato da sabato mattina, e prima di attuare lo sgombero non c'era nessun tipo di programmazione per le alternative di queste persone. Quindi sabato mattina la maggior parte delle persone, tranne qualche famiglia, sono state buttate fuori dall'edificio, e di cui un buon 200 persone abbondanti si sono ritrovati a non sapere dove andare, si sono accampati in Piazza Indipendenza, sì, in Piazza Indipendenza all'Addiaccio, e dopodiché ci sono state delle negoziazioni in corso per vedere se potevano essere trovate delle soluzioni. Le soluzioni che sono state proposte non erano adeguate secondo le persone che erano là. Perché questo devo dirlo, in effetti Fabri, la questura dice che la situazione è precipitata, sono stati usati gli idranti, sono entrate in azione in tenuta antisommossa eccetera, soltanto nel momento in cui è stata proposta una soluzione, un alloggio alternativo dice la questura, queste persone si sono rifiutate. A quel punto, non sapendo che pesci pigliare, la polizia è dovuta intervenire in maniera più violenta. Ma io direi che il tema principale è perché queste soluzioni non sono state proposte prima di effettuare lo sgombero e perché non è stata cercata una soluzione prima. Cioè, è molto sorprendente vedere che prima si sgombera e poi si cerca di trovare delle soluzioni. Cioè, ma è possibile che il Comune di Roma, la Questura, la Prefettura non avessero una soluzione? Perché io dico, sono d'accordo, credo con lei da questo punto di vista, anzi forse magari sullo sgombero in sé non siamo d'accordo, però credo che sia innegabile che una situazione di illegalità comunque come quella e anche di caos che si stava creando al centro di Roma, perché c'era una situazione estrema, chiunque passasse di lì quotidianamente lo poteva vedere. Lo sgombero è inoppugnabile, nessuno può dire niente su quello, ma che il Comune, la Prefettura, la Questura arrivino lì senza un'idea su cosa fare dopo con quelle persone, che ovviamente se gli dici semplicemente di andarsene non vogliono andarsene, questo è incredibile. Ma è questo esattamente il tema, è quello che noi abbiamo detto anche prima di quello che è successo oggi, l'abbiamo enunciato ieri, negli altri giorni che siamo stati là, che speravamo di vedere che ci fosse la volontà di trovare veramente delle soluzioni e che metodi del genere possono sposare in episodi di violenza, resistenze, bisogni della questura, della polizia di risolvere una situazione precaria. Quindi questo può essere completamente evitato, non è stato così oggi, ci sono scaturite delle violenze che purtroppo noi abbiamo dovuto testimoniare, abbiamo visto con i nostri medici che hanno curato più o meno 13-14 persone, dove 5 sono stati riferiti all'ospedale. Insomma, situazioni che sono veramente spiacevoli. Ci sono stati degli abusi, secondo voi? Perché c'è anche un video nel quale si sentirebbe una voce di un poliziotto dire: se vi tirano qualcosa, spaccategli un braccio, cose di questo genere. Ma queste sono situazioni di estrema tensione da tutte le parti, quindi il tema vero qua è trattare le persone in maniera dignitosa, e questo non è successo, c'è stata della violenza e non ci sono tuttora delle soluzioni per queste persone che sono disperse e non hanno posto dove andare. Questo alimenta tutto un problema di integrazione e di situazioni che non sono gestite. Ma potrebbero essere delle soluzioni? Avrebbero potuto essere delle soluzioni per individuare delle categorie di persone, no? Perché all'interno c'erano sicuramente bambini, abbiamo letto anche persone che non stavano bene, disabili, e queste sono categorie deboli. Poi c'erano dei profughi che quindi hanno diritto a uno status di protezione. E poi però c'erano anche dei migranti semplicemente irregolari che forse devono essere identificati ed espulsi. Non so, questo è quello che arrivo a capire io. Secondo voi quali dovevano essere delle soluzioni tutte alternative? Tutte le categorie più vulnerabili devono avere, o vulnerabili in generale, devono avere una priorità nella presa in carico. Questo dovrebbe essere sacrosanto. Quando si parla di persone vulnerabili parliamo di vulnerabilità mediche piuttosto che donne sole, donne incinta, tutta una serie di persone che sono elegibili a un tipo di protezione, compresi tutte le persone regolari in protezione. Il resto delle persone c'è una legge che deve essere rispettata e penso che tutte le persone che erano all'interno dell'edificio siano state identificate e portate in questura, quindi non è neanche questo il tema, ma chiunque sia regolare, che irregolare, che deve essere trattato in maniera dignitosa, non può essere lasciato all'addiaccio solo perché deve essere recuperato un edificio che, come ha detto lei prima, è sacrosanta e nessuno lo mette in dubbio, ma ci sono delle procedure che possono essere messe in atto e anticipare certe situazioni. Quindi dare dignità alle persone, prevenire qualsiasi tipo di violenza e prendere in carico soprattutto all'inizio le persone più vulnerabili. Più deboli. È possibile immaginare, Fabri, se non so quali soluzioni sono state trovate e diciamo la situazione è stata risolta dal punto di vista proprio dell'ordine pubblico in maniera definitiva adesso in centro, nei paesi di Piazza Indipendenza a Roma, ma che bubone possa riscoppiare a pochi metri o a qualche centinaio di metri, perché queste persone in assenza di un'altra soluzione come dire, il problema si sposti ma non si risolva. Ma questo è un qualcosa che deve essere preso in considerazione tra tutte le autorità in merito. Noi siamo un'associazione di medici e ci incarichiamo a vedere che certi accessi a cure mediche e che la dignità delle persone venga rispettata. Quando le persone erano fuori in Piazza Indipendenza non avevano neanche accesso a dei servizi igienici, avevano iniziato a manifestare delle infezioni cutanee per il posto dove vivevano. Quindi questa è una cosa che non deve assolutamente succedere. Il resto io penso che tutte le autorità abbiano anche loro l'interesse di trovare una soluzione e anticipare. Prendere e fare una cosa del genere, io, per me è una cosa inconcepibile e inaccettabile. Va bene, grazie, buona serata. Tommaso Fabri di Medici Senza Frontiere in Italia, 800 24 00 24. Andiamo con Fabio che chiama da Milano. Vai Fabio, buonasera. Ah, buonasera, mi sente? Sì, forte e chiaro. Ah, forte e chiaro, perfetto. Senta un po', io proponevo una, forse una stupidaggine, però penso che molti italiani l'abbiano pensato questo. L'abusivismo che c'è in Italia, ma quello che è successo addirittura al terremoto, eccetera, di case che sono crollate, appena fatte nuove, sì. Tutte queste belle cose qui, no? Fatte solamente senza nessuna norma, no? Normale. Allora, secondo me bisognerebbe modificare leggermente un articolo della Costituzione che tratta la proprietà. Come Fabio? Del cittadino. Modificarla. Una modifica che dice, tutti, lo chiamano, tutte le cose abusive, no? Tutte le, possono essere capannoni, case, sì. Palazzi, eccetera, che vengono fatti con l'abuso, diciamo sì. In abuso, eccetera, senza nessun permesso, niente, devono essere sequestrate, diventano parte dello Stato. Quello che vuol fare De Luca, quello che vuol fare De Luca in Campania, renderle pubbliche e poi affittarle. Lo Stato gliela ha impugnata, è sì. Vero, De Luca non si può permettere di fare una legge. Però scusa Fabio, che senso ha cambiare la proprietà di un abuso se è un abuso? Se il secondo piano della casa di Ischia non doveva essere costruito perché era pericoloso ed è venuto giù col sisma, cosa cambia? Cosa sarebbe cambiato se fosse stata di proprietà pubblica? Cambia perché togliamo tutta la burocrazia che c'è di mezzo per poter abbattere una casa. Io, Stato, mi permetto l'uso di questa casa. Questa è l'altra parte del discorso. Questa è l'altra parte del discorso. Esatto. Io se ti sequestro la casa, cioè, tu dici sequestro e demolizione. Poi la butto giù perché è mia, ne faccio ciò che voglio. La butto giù io. Allora, primo, in Italia, secondo, Fabio, sì, esiste prego, già la magistratura che emette delle sentenze, ce ne sono migliaia in tutta Italia. Poi il problema, è che spesso non ci sono i soldi per fare gli abbattimenti. Allora, diamo ai comuni, diamo a chi emette una sentenza di poter entrare a far parte di andare a prendere i soldi dove sappiamo, nella casa dei prestiti, eccetera, andiamo lì. Facciamo un budget in questi due mesi, in questi anni, eccetera. Quante case dobbiamo battere giù? Primo. Facciamo una raccolta, facciamo un crowdfunding, esatto. Perché al momento la situazione è questa qua, no? Ci sono i magistrati che emettono le sentenze vanno eseguite, non lo possono fare loro, lo devolvono alla pubblica autorità che è il comune. Il comune in qualche caso non ha i soldi, in qualche altro non li vuole trovare perché non vuole mettersi contro i suoi cittadini che hanno fatto gli abusi. Pensiamo che a Ischia ce n'erano 27.000 domande di condono su 60.000 abitanti, quindi praticamente hai contro tutta la popolazione, o quasi, in luoghi come quelli. Poi ci sono altri luoghi dove per fortuna le proporzioni non sono le stesse. Carlo da Bologna, buonasera, vai. Ce l'abbiamo Carlo? No. No, sì, se risponde ce l'abbiamo allora. Io sono 2 anni da Bologna che sto ascoltando. Ah, vabbè, caso. Allora c'è stato un qui pro quo. Abbiamo Giovanni da Bologna, vai. Gianni da Bologna, Gianni, comunque Gianni. Non c'è problema. Stavo ascoltando con attenzione diversi argomenti che vanno dall'imam fino al caso di Ischia. Allora, andando per ordine, l'imam ha detto delle cose che sono veramente, molto velocemente, perché il tempo stringe, l'imam ha detto delle cose che francamente solo lei è in grado di dirlo, perché non è percepito da nessuno questa cosa, questa distanza che l'Islam prende dal terrorismo, da nessuno è percepito, quindi è bene che si faccia un esame di coscienza e che il mittente sono tutti gli italiani, che assolutamente non vedono gli islamici che protestano contro questi eventi che sono subito da abiurare. Lo penso anch'io, anche perché spesso dicono, ma si sente dire da queste persone legittimamente, ma io sono un comune cittadino, che cosa ho da comune col terrorista, perché devo prendere le distanze? Però se te lo chiedono i tuoi concittadini, diciamo non islamici, già questo diventa una motivazione, no? Fare delle manifestazioni pubbliche perché? Perché te lo chiedono i tuoi concittadini, perché vogliono vedere che c'è una presa di posizione visibile, chiara, netta contro quella cosa lì, e questa già sarebbe una ragione. È sparito l'ascoltatore, è caduto? No, c'è, vai. Poi degli incontri interreligiosi, in modo tale da prendere le distanze, diciamo, da questi fenomeni, no? Sì. Cioè le religioni fra loro devono incontrarsi più spesso, far vedere che queste cose qua sono delle degenerazioni, e poi soprattutto separare la parte Stato rispetto alla religione, bisogna smetterla di coniugare le due cose. Se queste popolazioni islamiche vengono qua e vogliono mischiare la religione con lo Stato, non funziona da noi, perché in Europa lo Stato è laico, non c'è nulla da fare, quindi si devono adeguare delle leggi, e se non le vogliono rispettare tornino veramente a casa loro, e questo è il mio concetto che volevo esprimere. Va bene, grazie anche a te, buona serata. Borsa, torniamo tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite. Allora, andiamo con i vostri interventi. C'è Claudio che chiama da Catanzaro. Vai Claudio, buonasera. Sì, salve Maurizio. Senta, io vorrei un attimo intervenire sui vari temi trattati. Sì. Iniziando dall'imam, insomma, dall'ISM in generale. Cioè, vorrei tornare su quello che è il ruolo della comunicazione. Cioè, è abitudine ormai consolidata utilizzare il termine islamico anziché musulmano, seppure il termine islamico rappresenta nel gergo comune, come dire, una parte più fanatica del mondo musulmano. Cioè, questo modo di raccontare i fatti di cronaca o di trattare semplicemente il tema come fatto in trasmissione, a mio avviso non fa che accentuare quella che è l'ostilità e il pregiudizio verso un mondo, quello musulmano, che invece chiede... No, semplicemente... non ti seguo Claudio, non ti seguo, perché tu dici islamico e musulmano vengono usati come sinonimi, invece non si dovrebbe? Cioè a mio avviso il termine islamico indica più una parte più fanatica del mondo musulmano. Ma a tuo avviso però, non è che... cioè, che non è scritto da nessuna parte, non so, lo pensi tu. Cioè nel gergo comune viene indicata la persona fanatica, sì. La persona fanatica viene indicata con il termine islamico. Ma scusa, sarebbe come dire, siccome portoghese si usa per dire così, uno che non paga il biglietto, no? Se c'è questa vecchia modo di... Allora io non dovrei usare la parola portoghese quando parlo con uno del Portogallo, dovrei dire un'altra cosa diversa. Andrebbe usato semplicemente il termine musulmano, che è il termine più consono, per indicare una persona che professa quella religione. Vabbè Claudio, però sono sinonimi, se usa uno si usa l'altro, da parte mia non c'è nessun tipo di... No, non era il... cioè non volevo sottolineare questa mancanza da parte della... No, ma non è una questione di una mancanza, è che secondo me questa sfumatura questo, io dico questo genere, cioè, se di cominciamo di a dire che allora islamico è negativo, poi non lo potremo più dire. Purtroppo per gli addetti ai lavori è così. Ma gli addetti ai lavori chi, scusa Claudio, per gli addetti ai lavori quali addetti ai lavori? Parliamo di ricercatori, parliamo di persone che conoscono questo mondo meglio di chi comunque tratta questo tema, anche forse ricercatori storici, ricercatori sociologi, gente che studia religione, dice che islamico è una parola negativa, non credo, guarda. Non... È proprio così. Ma invece chi è la fonte di questa notizia? Chi è che la dice questa cosa qua? Vabbè, non posso farle il nome dei vari ricercatori. Peccato, perché invece mi piacerebbe averla il nome di questi ricercatori. Perché... Io segnalerò questo tema alla ricercatore che conosco, così magari interverrà anche in trasmissione, perché potrebbe dare molti spunti su questo tema. Invece per quanto riguarda l'abusivismo che sentivo poco fa, cioè come si fa, si parlava di abbattimenti, come si fa a differenziare, sulla base di quale principio si differenziano, ad esempio, gli abusivismi condonati nel tempo da invece quegli abusivismi che oggi rappresentano la parte più pericolosa dove bisogna intervenire, quindi come si differenziano le varie persone? Cioè, chi ha ottenuto un abusivismo che è stato condonato, allora può vivere in santa pace, può stare tranquillo, e magari ha una casa che è vicino, per esempio, a un canale d'acqua dove scorre acqua durante, per esempio, durante i temporali, e invece un edificio che è abusivo e deve essere per forza abbattuto oggi. Come si differenziano queste persone? Anche perché magari tante volte parliamo di persone che hanno un'unica casa, quindi come si fa ad abbattere una casa che è abusiva senza prevedere magari un'alternativa? Vabbè, per Claudio, le persone? Io ci ho capito quasi nulla di quello che hai detto, vediamo se hanno capito gli ascoltatori, qualcuno ti risponde su questa differenza che stavi dicendo tu. Giuseppe da Crotone, vai, buonasera. Buonasera. Sì, guardi, io sto intervenendo giusto per... sono molto, quando si parla di abusivismo edilizio, io non so più nella pelle, sono arrabbiatissimo, sì. Perché ho creduto, guarda, io sono laureato in giurisprudenza, avevo cominciato a fare l'avvocato all'epoca, io purtroppo ho qualche anno, c'erano le preture mandamentali, d'accordo? E andai a fare il pretore mandamentale in una pretura calabrese, d'accordo? Mi dedicai a vita persa a fare il pretore del luogo. Una delle cose che non trascurai, ma che coltivai con grande impegno, era l'abusivismo edilizio. Perché? Con quali risultati, Giuseppe? È questo, guardi, sono... Perché la Calabria, ahimè, mi duole. Perché... No, lo so, ma guardi, non lo dica a me. Scusi, sono un po' arrabbiato perché ogni volta che parlo di abusivismo edilizio e passo da questo comune, quest'area dove ho fatto il pretore, mi arrabbio, avrei voglia di demolire tutto. Attestate, di demolire gli abusi attestate, Giuseppe. L'abusivismo si combatte solo con le demolizioni. Sì. E allora, io in Calabria... a Strongoli, in provincia di Crotone, ero il pretore del luogo. Sì. La spiaggia è ora è un blocco di cemento. Ai miei tempi io non è per un fatto, voglio personalizzare la questione. Però... Sai che cosa feci? Cosa feci? Con i carabinieri, con i vigili urbani e anche da solo andavo a controllare. Appena veniva messo un pilastro, sì, sai che cosa facevo? Il sequestro. Però, bravo, però... perché il problema è vero che quando uno mette i pilastri di notte, poi fa il primo piano, poi dopo si vedrà il secondo piano, e a quel punto poi basta, ormai è fatto, non lo può più contestare nessuno. Ai miei tempi appena si mette... No, ai suoi tempi però, Giuseppe, lei perché aveva particolarmente a cuore, però gli abusi nascono proprio così, nascono poco per volta. Ma lo possono bloccare, sa perché? C'era una questione, provvedimento di sequestro, se si notificava genericamente un provvedimento di sequestro, il palazzo continuava a crescere. Io mi sentii con i magistrati, eccetera, eccetera. Se al pilastro viene il provvedimento di sequestro viene applicato col piombo, sì? Ecco, e per costruire quindi vengono rimossi il piombo, insomma. Sì. Sai che cos'è? È un reato perseguibile penalmente. Con la Vabbè, Giuseppe, di io la ringrazio. No, ma la vicenda è ingarbugliata. Io, poi lei è accalorato, cioè, ci perdiamo anche qualche pezzo del suo racconto. Però il fatto è che è evidente che non è così semplice fermare gli abusi e abbatterli, perché sennò non saremmo arrivati fin dove siamo arrivati. Abbiamo i titoli del TG3. Un anno fa il terremoto del centro Italia che provocò la morte di 299 persone, messa solenne ad Amatrice, il vescovo in rinvia non paga, veglia di preghiera nella notte. A Ischia proseguono i controlli sugli edifici lesionati, danneggiata una scuola appena ristrutturata con interventi antisismici. Domani i funerali delle due vittime. Frana in Svizzera, al confine con l'Italia, continuano le ricerche degli 8 escursionisti dispersi da ieri sera. Più di 100 le persone sfollate nella valle. Momenti di tensione all'alba a Roma per lo sgombro dei migranti vicino alla stazione Termini, lancio di sassi e bombole contro gli agenti che rispondono con gli idranti. Protesta in provincia di Piacenza contro l'arrivo di 15 migranti minorenni, una scritta sui muri e blocco della struttura di accoglienza. Vienna avvia i controlli al Brennero. Le immagini dei tre attentatori sorridenti al supermercato di Cambrils prima della strage. In un video l'ISIS torna a minacciare la Spagna, tornerà terra del califfato. Allora, dice Luca che ci scrive al 349-238-6666, pare anche a me che ci sia una differenza tra musulmani, scrive con due S, sbagliato Luca, e islamici. È certo che c'è la differenza, io non ho detto che non c'è differenza, io dico un'altra cosa, io dico che non si può accettare il fatto che dire islamico sia di per sé negativo, abbia un'accezione negativa, come diceva quell'ascoltatore, e che quindi bisognerebbe usare un'altra parola. Non si può accettare questo, perché non è così, non è che islamico è di per sé una cosa negativa, e quindi non, lui diceva non diciamolo perché sennò creiamo degli stereotipi, ma gli stereotipi ce l'abbiamo in testa e non sono in quelle due parole, una che ha un significato negativo e l'altro che ha un significato meno negativo. Questo. Allora, adesso è il momento di andare a Ischia con Concita Sannino, inviata di Repubblica. Ciao, benvenuta. Ciao, grazie a voi e agli ascoltatori. Allora, no, grazie a te perché sei lì e stai facendo un lavoro come altri colleghi importanti, perché la storia di questa benedetta casa che è crollata e a un certo punto è stato intervistato tu stessa il vicino di casa, ma poi anche il proprietario di casa, che ha ammesso candidamente, no? Che cosa ha ammesso? Qual è la storia di questa benedetta casa? Ci ha raccontato, è un'incredibile storia, perché vedi, incarna, come stavi dicendo, quelle contraddizioni e quel nodo su cui ci siamo concentrati da Repubblica, in particolare dal primo momento, cioè quanto gli abusi che purtroppo esistono in quest'isola, ben inteso come su tutta la fascia costiera italiana, non raccontiamoci frottole, ma ad Ischia vi è una particolare incidenza degli abusi. Allora la domanda è, visto che ci sono 400 sfollati, 40 feriti, due povere donne morte, certo, quanto incidono gli abusi sugli effetti di questo devastante terremoto che, ricordiamolo, è stato devastante a dispetto di una magnitudo che sembra relativamente bassa, ma non lo è, perché ci hanno spiegato ingegneri e geologi, sì, con molta calma, specie stamane, che invece su quel punto, su quel cucuzzolo, lì a Casamicciola Alta, questo 4 di magnitudine diventa molto più forte. Atteso questo, la casa delle macerie, la casa simbolo di questo disastro, è la casa che ha praticamente sepolto quei fratellini che poi sono stati salvati. Sì. Allora, quella casa aveva una sopraelevazione abusiva, aveva un terrazzo con tettoia abusiva, ma, e questo è il punto, il signor Gianni Trani e il suo cognato, che sono proprietari della gran parte della palazzina, ci raccontano che il costruttore, che poi era un lavoratore, il loro appunto parente, aveva costruito questo piano chiedendo nei tempi giusti e secondo un condono legittimo dello Stato, aveva chiesto un condono nell'85 e aveva chiesto una seconda integrazione per questa tettoia sul terrazzo nel 94. Avevano versato oneri. Avevano quindi pagato milioni di vecchie lire al comune, allo Stato, e non avevano più avuto risposta. Questa è la versione che si racconta Gianni Trani, che ieri ha raccontato in esclusiva Repubblica e che stamane devi sapere, ci conferma e ci integra, come domani i nostri lettori ascolteranno, sì, lui ed altri testimoni. Cioè, quindi allora, facciamo un attimo il punto, Concita. Lui dice: io ho fatto questa sopraelevazione, ho chiesto il condono e nessuno mi ha più risposto, è questo? Esatto, nessuno mi ha più risposto, nessuno mi ha detto, sì, se questa casa che noi avevamo costruito, diciamo la cui sopraelevazione, perché l'originaria casa era naturalmente regolare, la cui sopraelevazione era stata costruita inizialmente come abuso e poi soggetta a condono, nessuno ci ha detto se era fatta male, se era fatta bene. Noi avevamo i nostri pensare male si fa peccato, però io mi dico, mi immagino che non fosse così preoccupato di non avere ricevuto una risposta per questa domanda di condono, perché se tu stesso costruisci, speri che questo condono passi o che ti venga sanata o che nessuno ti dica nulla, altrimenti non costruisci. Quindi come dici? Cioè, esattamente. Certo, c'è un difetto, come dire, di sicurezza, ma il dramma qual è? Che in questo caso lui, come tantissimi altri, e ripeto, non solo qui, sì, di fatto sottopongono se stessi, perché noi non dobbiamo dimenticare che al in rischio. Questa casa viveva questo signore al con rischio, sua certo, moglie, con i suoi figli, con tutti i suoi parenti più cari, e la sua stessa moglie, come la moglie dell'altro proprietario che ci viveva, erano nelle macerie. Ma infatti io ti vorrei chiedere questo, Concita, stando lì e parlando con la gente anche off the records, cioè non interviste, certo, eccetera, eccetera, certo, perché questa è la lamentela, no? Il comune, lo Stato che è responsabile e corresponsabile, eccetera, ma sarà un'altra Ischia, per esempio il vicino di casa che è stato il primo a puntare il dito e a dire, uno, chi magari non ha niente da temere, non ha niente da condonare, a dire, ma sei tu che hai fatto, che hai costruito un piano dove non andava costruito, sei tu che ti sei creato il mostro in casa. La gente, parlando, arriva anche a questo tipo di conclusioni? Certamente, ma ti sorprenderò, sai, perché il vicino, che giustamente, come tu ricordavi, dal primo momento ci aveva messo la polce nell'orecchio e poi noi l'avevamo registrato dalle prime ore, questo vicino, le cui dichiarazioni io poi ho riportato perché replicasse stamattina al signor Trani, è un vicino che secondo Trani e secondo i suoi parenti voleva a sua volta costruire una sopraelevazione, ma non ha avuto il permesso da Trani e dagli altri. Mani nei capelli, non so. Come capisci, è una situazione di grande complessità, sì, di grandi contraddizioni, dove la contraddizione più grande, se mi consenti, certo, è quella di una classe politica e di istituzione che, se da un lato, no, sono in ogni caso carenti nel controllo, sì, nella gestione del territorio per motivi di clientelismo, soltanto poche settimane fa, come sai, hanno prodotto che in regione, la regione Campania, governata da De Luca, a prescindere dai colori, che come sai non è affar nostro, non ci frega nulla, però è la regione che proprio l'altro giorno ha fatto arrabbiare il ministro Delrio, perché di fatto ha proposto una sorta di graduazione delle demolizioni che si traduce per tanti cittadini in un incentivo e in un, certo, avallare gli abusi, capisci? Quindi, come vedi, si torna al punto di partenza, cioè lo Stato non ha mai fatto sul serio su questa roba. Grazie Concita Sannino, grazie, buona serata, grazie. Inviata di Repubblica, 800 24 00 24, traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Non lo so, io la classe politica, De Luca, il governo, le tasse, gli oneri, con tutto quello che volete, però quello che non capisco è come il signor Trani, anziché dire sbattere la testa contro il muro e ringraziare il Signore che è andato tutto bene, cioè tutto bene, è andato tutto male, ma non c'è morto nessuno in quella palazzina, va a tirar fuori lo Stato, il governo, la regione, che sono corresponsabili insieme a lui. Ma se anche tu sei responsabile, ma come, Cristo Santo, come non ti viene in mente di dire ma che cazzata che ho fatto a fare l'abuso? Questo è il punto. Finché non scatta questa cosa qua, siamo sempre fermi, secondo me, al punto di partenza. 800 24 00 24, c'è un ascoltatore che mi corre in soccorso sulla questione islamico-musulmano e dice, l'ascoltatore precedente fa confusione tra islamico e islamista. Ecco, può darsi che l'ascoltatore avesse in testa quello, perché islamista sì, ha un'accezione di integralismo negativa. Gianmario da Roma, vai. Ciao, buonasera. Ciao, ciao. Allora, volevo intervenire in merito al terremoto di Ischia e mi chiedevo come mai, nonostante ci siano state situazioni analoghe anche per terremoto di Amatrice, o meglio di Accumuli, se sì, vogliamo essere più precisi, e idem anche per quanto riguarda il terremoto di Reggio Emilia, che sicuramente non era storicamente un territorio terremotato, ma comunque essendo in Italia, l'Italia è comunque un territorio soggetto a terremoti. Sì. Come mai solo per Ischia si parla di abusivismo? Sarà perché ci sono 30.000 domande di condono su 60.000 abitanti, cioè il record. Assolutamente corretto. Ma io le volevo far pensare a lei e anche al geologo Tozzi, che tanto si sta parlando di abusivismo in questi giorni, che tutto ciò è avvenuto in un lembo di terra di un chilometro. E quindi? Quando in realtà il terremoto è avvenuto al largo di Lacco Ameno, che dista almeno 3 chilometri dalla zona dove sono cascati gli appartamenti. Non ti seguo, Gianmario, vai al punto perché non ti sto seguendo. Il punto è che quella zona in particolare, che dove sono crollate tutte quelle palazzine, sì, è una zona, se le vedete anche su Facebook, è tutta una serie di informazioni, è una zona che si trova all'interno di 2/3 territori con caratteristiche geofisiche completamente diverse. E quindi? E quindi vengono amplificati maggiormente gli effetti del terremoto, che sì, 4.0, 3.6, quello che sia, ma ha amplificato tantissimo quelle case, le case che sono crollate. No, ma la casa del vicino di casa, la casa del vicino di casa non è crollata, che... Gianmario, la casa del vicino di casa che non aveva abusi non è crollata, è crollata quella col doppio piano, capisci? Questo è un punto. Non è che ma si... assolutamente, ma e allora di questo si sta parlando. Quello, ma non è quella l'unica casa non crollata. Di dietrologie, ne no, sono crollate. No, no, no, ma ne sono crollate, non sto parlando di dietrologie. Vabbè, allora parleremo anche delle altre case crollate. Va bene. Parleremo anche delle altre. Sì. MLA, non per parlare delle altre, è semplicemente per parlare di un lembo di terra di un chilometro, un lembo di terra di un chilometro dove sono cascate tutte le case. No, non perché sono cascate tutte, non sono cascate tutte. Non sono cascate tutte. E no, io purtroppo, avendo amici di Ischia che sì, ci siamo sentiti fino a 3 minuti fa, purtroppo mi hanno detto l'esatto contrario. No, non sono cascate tutte le case, alcune sono cascate, altre si sono crepate, altre no. Io le dico, a Piazza Maio, sì, che è la zona interessata da quell'appartamento, è cascata una palazzina di 4 piani, tutti i solai sono cascati. E tutte le abitazioni lì attorno al quartiere di 100 anni, che è il quartiere che è cascato nel 1883, sì, l'unico quartiere di Casamicciola che è stato raso al suolo. A questo punto io mi chiedo, a questo punto Gianmario, allora, ma c'è stato il terremoto, abusivo, è chiaro che sono crollate le case, qua discutiamo ma di quello che non si di quello scusi, che non si doveva fare, che si è fatto, che ha aggravato la situazione, lo capisci o no? Cioè, si può discutere anche del terremoto, del sisma, di tutto quello che vuoi. Ma sicuramente ha aggravato la situazione, ma state parlando a reti unificate solamente di abusivismo. Io semplicemente questo volevo dire, non altro. Non dico che quel signore c'ha ragione, assolutamente quel signore. E allora qual è il problema? Che problema c'hai? Che problema c'hai, Gianmario, se parliamo di abusivismo? Qual è il problema che c'hai? Che problema se allora siamo d'accordo. Ciao, buonasera. Ciao. Parliamo di abusivismo, non c'è nessun problema, nemmeno noi. Gianpaolo da Firenze. Gianpaolo, vai. Sì. Volevo fare una presentazione riguardo la diatriba fra musulmani e Islam. Sì. Intanto sono sinonimi, cioè i musulmani aderiscono alla loro religione attraverso l'Islam, che vuol dire obbedienza. Mm-hmm. Grazie. Quindi, per queste precisazioni, Gianpaolo. L'Islam è lei. Può darsi che l'ascoltatore facesse confusione, come ci ha suggerito qualcuno, con islamista. Sì, mi ha fatta parecchio la seconda parte, sì, del tuo intervento, era indecifrabile. Sì. Però intanto non c'è nessuna accezione di tipo negativo in quella, è semplicemente uno strumento, cioè essere musulmani lo si realizza attraverso l'Islam, cioè l'obbedienza intanto alle 5 regole e ai dettami del Corano e dei libri successivi. Gianpaolo, ma tu sei dotto perché hai studiato, perché hai letto, perché sei... Io sono un medico. Sei un medico. Però ti interessi letto di queste cose? Hai letto, bravo. E invece islamista, ci confermi che islamista invece no, ha un'accezione negativa, perché è come a sottolineare l'aspetto integralista della professione. Esatto, l'islamista sì, almeno nell'accezione comune il termine è enfatizzato nel senso di un'accezione negativa. Va bene, grazie bene. Gianpaolo, buona bene. Serata. E così abbiamo fatto un piccolo ripasso che fa bene a tutti. Maurizio da Verona, vai. Sì, buonasera. Riguardo l'Islam, noi abbiamo avuto in Italia, tra i più grandi paesi europei, forse quello che ha avuto l'esperienza del terrorismo più a lungo e più in maniera importante. Sì. Quindi dovremmo ricordare che in Italia il terrorismo rosso è finito quando all'interno del Partito Comunista qualcuno ha coniato l'espressione "i compagni che hanno sbagliato". E in questa maniera qua i terroristi sono stati esclusi e da lì è cominciato la loro fine. Poi sono durati molto, ma Il brodo di cultura, la terra di mezzo, la terra grigia, no? Cioè, esatto. Non i terroristi né quelli che non c'entrano nulla, ma i simpatizzanti, quelli che allora erano dell'estrema sinistra, eccetera, cioè che tutto sommato chiudevano un po' un occhio. Si è rotta quell'argine, si è chiuso quell'argine, a quel punto tu dici il terrorismo è finito. E la stessa cosa dovrebbe accadere con il terrorismo islamico. Sì. E fra l'altro, il terrorismo islamico, secondo me, sarebbe bello vedere le donne islamiche che scendono in piazza, perché vediamo sempre queste manifestazioni anche nel Nord Africa, sono d'accordo. Sono solo gli uomini che ci vorrebbero essere, le donne 100%. Islamiche, le donne italiane che scendono è quello in piazza che cercavo di dire a Nibras Breghesce, la prima guida religiosa in Italia, insomma questa donna responsabile all'interno delle comunità islamiche, e però appunto lei con un po' di reticenza in realtà diceva no, ma noi già stiamo prendendo le distanze eccetera. Invece sono d'accordo con te Tiziano, sarebbe bello vedere una manifestazione di donne islamiche tutte in quella direzione là. Non so quanto dovremmo aspettare ancora, forse non molto. Speriamo, grazie. Abbiamo finito gli ascoltatori? No, c'è Maurizio? Ci abbiamo Maurizio? Vai. Tiziano. Tiziano. Pronto? Da Bologna. Pronto? Sì, prego. Buonasera, Tiziano da Bologna. Volevo mettere in evidenza due dati che sono stati dati relativamente... Sì, no, chiedo scusa, ho fatto confusione con l'ascoltatore di prima che era Maurizio. Vai Tiziano, scusa, vai. Sì. Maurizio o Tiziano? No, ci sei tu. Okay, grazie. Il casino i assoluto. Dati che sono stati dati sull'abusivismo a Ischia. Sì. Due dati non confrontabili a mio parere, le spiego perché. Non confrontabili con cosa? Con cosa? Non confrontabili. Abbassa la radio, ascoltaci solo al telefono, Tiziano. Se no sentiamo casino. Si sente meglio adesso? Sì. Ha estremizzato. Prima parlando di 30.000 contro 60.000, solo che i 30.000 sono le domande, sì. 60.000 sono gli abitanti, sì. Giusto? Sì. Se una domanda corrisponde ad una locale, i 60.000 abitanti non corrispondono a 60.000 locali, dico bene? Non lo so. Questo farebbe pensare un rapporto 1-2. Sì. Se invece ci fossero due abitanti per ogni locale, il rapporto è 1-1, che vuol dire che sono tutti, hanno costruito in modo abusivo, ovviamente mettendo le opportune correzioni, cioè invece di 30.000, 25. Sarà che sono stanco a questo punto, però non ci capisco più nulla. Tiziano, devo chiudere, devo togliere la linea, non ho capito nulla di tutti questi calcoli, li riaffronteremo magari domani. Un ringraziamento ad Alessandro Longoni, Matteo Ramelli, Andrea Spenuso in redazione, Roberta Fisani in regia. Ciao a tutti, un caro abbraccio da Alessio Maurizio, ci risentiamo domani 18:20 con Si può fare. Ciao a tutti.